Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di economia come è d'uopo in questa rubrica, e parliamo di debito e crescita, l'equazione della crisi. Ne parliamo con Marco Fortis. Buonasera, professor Fortis. Buonasera. Docente di economia industriale e commercio estero della Cattolica di Milano, vicepresidente della Fondazione Edison, e con Alberto Quadrio Curzio. Buonasera, professor Quadrio Curzio. Buonasera. Professore emerito di economia politica all'Università Cattolica di Milano e vicepresidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Quindi Debito e Crescita, un libro edito dal Mulino nella collana della Fondazione Edison, dove sono raccolti gli articoli che Quadrio Curzio e Fortis hanno scritto negli ultimi anni, in parte sul Sole 24 Ore, in parte sul Messaggero, in parte sul Corriere della Sera, per mettere a fuoco di volta in volta l'andamento di una situazione economica che aveva molte cose da raccontare. Basta ripensare a quanto è avvenuto nell'ultimo anno. Ma il titolo, direi, Debito e Crescita, mettono a fuoco i due grandi problemi attuali, non solo dell'Italia, due problemi appunto che i nostri paesi devono affrontare. Allora, professor Quadrio Curzio, abbiamo una prospettiva certamente difficile davanti, abbiamo molte cose da fare, ma debito e crescita resteranno appunto due elementi. Il debito è sicuro, la crescita è incerta. Cosa si può fare, che cosa emerge dalle vostre analisi? Devo dire che la nostra riflessione incentrata sull'Europa a valle si muove con riferimento al contesto italiano, che è stato particolarmente approfondito da Marco Fortis, e a monte si muove nel contesto degli Stati Uniti, che rimangono il paese più forte anche per la sua capacità, unita a non indifferente coraggio, di affrontare questa crisi che esso stesso ha generato con una politica fortemente espansiva e con interventi massicci monetari e di acquisto di titoli da parte della Riserva Federale per rilanciare la crescita. L'Europa, che come si vede da tutti i dati è caratterizzata da elementi strutturali certamente più solidi di quelli degli Stati Uniti, è tuttavia carente sotto due profili. Da un lato un eccesso di rigore fiscale, secondo un paradigma tedesco che a mio avviso è molto pericoloso, da un altro lato una carenza di governance o di governo, e dunque una scelta che con la crescita è certamente antagonizzante, per conseguire dei livelli di bilancio e di debito che in un contesto di recessione sono conseguibili solamente con dei rischi di recessione terribili. Dunque questa è un po' la questione. Paesi con un debito relativamente minore di quello degli Stati Uniti in media non fanno delle politiche espansive e quindi si subiscono una recessione con livelli di disoccupazione molto pesanti, che alla fine potrebbe anche tramutarsi in una crisi di natura sociale che ha la caratteristica sempre più pericolosa delle crisi economiche. Ecco, indubbiamente sullo sfondo c'è questo disagio sociale, un disagio sociale che è dimostrato dalla crescita della disoccupazione, delle difficoltà dei giovani che trovano lavoro, ma non mancano alcuni elementi su cui appigliarsi, da prendere in mano, quasi come uno scalatore che cerca la via più difficile. Allora, Marco Fortis, dall'interno della situazione italiana, pur in uno scenario appunto complesso come ha delineato il professor Alberto Quadrio Curzio, quali sono gli elementi positivi su cui si può far leva per invertire, far tramutare il circolo vizioso in un circolo virtuoso? Gli elementi su cui far leva innanzitutto sono quelli di uno sforzo che sicuramente l'Italia ha compiuto durante tutta la crisi per cercare di contenere e di stabilizzare i propri conti pubblici. Noi abbiamo evidenziato in questo nostro libro che la crescita del debito pubblico in termini monetari dell'Italia dal terzo trimestre del 2008, cioè da quando è scoppiata la crisi mondiale col fallimento della Lehman Brothers fino a tutto il 2012, è stata, ripeto, questa crescita monetaria in termini monetari del debito pubblico la più bassa tra i paesi dell'Eurozona e anche inferiore a quella degli Stati Uniti e del Giappone, ovviamente. Quindi questo è un dato importante, anche in termini di punti di PIL. La crescita del debito pubblico italiano nel corso del periodo è stata la più bassa assieme a quella della Germania. Sullo sfondo c'è uno sforzo notevole contenimento del deficit, che soprattutto nel corso degli ultimi due anni si è sensibilmente ridotto, e stiamo avvicinandoci al cosiddetto pareggio di bilancio aggiustato per il ciclo. Tra pochi mesi la stessa Commissione europea riconoscerà che l'Italia è uscita dalla procedura di infrazione, e oggi l'Italia ha il più alto avanzo primario statale del mondo occidentale dopo la Norvegia, che è un paese ricchissimo e petrolifero. Quindi lo sforzo fatto sui conti pubblici è importante e ci differenzia nettamente dagli altri paesi in difficoltà, quelli periferici, ma anche la Spagna. Nello stesso tempo c'è anche una forte economia reale, che è rappresentata soprattutto dalla capacità delle nostre imprese di presidiare i mercati esteri, che ha permesso di contenere gli effetti della crisi, perché se le esportazioni, se la domanda estera netta non avessero sostenuto in questi ultimi due anni il PIL, la caduta del prodotto sarebbe stata di gran lunga superiore. Quindi abbiamo un'economia che sa reagire, sa esportare. Purtroppo la crisi della domanda interna provocata dall'austerità è stata così forte da non permettere invece alle imprese spazi di manovra sul mercato domestico. Ecco, ma come convincere i mercati che il debito italiano è sostenibile? Nell'introduzione voi scrivete appunto che andrebbe portata all'attenzione dei mercati e degli organismi internazionali l'assoluta singolarità del caso italiano, dove il debito pubblico, ancorché da ridurre risolutamente, è assai più sostenibile di quanto non appaia dal semplice rapporto debito-PIL. Professor Quadriocuzio, come convincere i mercati? E qui ci troviamo veramente in un paradosso, perché i mercati prendono delle decisioni sulla base di elementi che in qualche modo hanno a che fare con i sentiment piuttosto che i fondamentali. E dunque, per esempio, situazioni di natura politica o di natura sociale complesse determinano degli atteggiamenti negativi dei mercati con riferimento a titoli di Stato. E questo è accaduto in Italia a partire dall'agosto del 2011, quando lo spread ha incominciato a crescere fino ad arrivare ai 540 o 570 punti base, non perché la finanza pubblica italiana stesse andando male. Già allora avevamo un avanzo primario significativo e tutto sommato i conti pubblici erano sotto controllo, ma la situazione politica era molto confusa, tant'è che poi si cambiò governo, e di questo i mercati tennero conto per mettere sotto pressione i titoli italiani. Come si possa far capire ai mercati che la nostra situazione di finanza pubblica è sotto controllo? È difficile dire, e in ogni caso io temo che adesso i mercati, laddove si mettano a penalizzare l'Italia, lo facciano non solo per ragioni politiche dovute alle recenti turbulenze sotto il profilo della Costituzione del nuovo governo, ma anche per una crescita molto bassa. È da notare che Fitch, nella sua decisione di downgrading dell'Italia, ha messo in evidenza un calo del PIL dell'1,8 nel 2013. Quindi bisogna stare molto attenti a dire conti pubblici in ordine, conti pubblici in ordine, perché a un certo momento, se questo determina un crollo del PIL, a quel punto la stessa valutazione dei mercati torna negativa sotto un altro profilo. Certo. Ecco, allora, per concludere, professor Marco Fortis, di fronte a questa realtà, tra l'altro l'ultimo articolo che voi riportate è un proprio un suo articolo in cui si dice l'Italia schiava del totem debito PIL, quindi di fronte a questa esigenza, l'esigenza di dare un po' di ossigeno all'economia, alle famiglie e alle imprese è fondamentale in questa fase. Questo è assolutamente vero, perché in questo momento l'Europa stessa, un po' per l'aggravarsi della crisi spagnola e italiana, si è venuta a trovare al centro di una difficoltà notevolissima sotto il profilo della crescita. La Germania è rimbalzata bene, lo ricordiamo, nel 2010 e nella prima parte del 2011, ma poi si è praticamente fermata, quindi stiamo parlando del paese ritenuto più competitivo al mondo che non riesce a crescere più dello 0,5% all'anno in queste condizioni. Perché? Perché l'eccessiva austerità ha rotto il giocattolo più bello che gli europei avevano costruito, che era il mercato unico interno, un mercato unico che in quanto ricco poteva determinare prosperità anche negli scambi intracomunitari tra i vari paesi, e di questo hanno tratto notevole giovamento non solo la Germania, ma l'Italia, la Francia e anche la stessa Spagna. Nel momento in cui abbiamo allargato l'austerità dai paesi realmente in crisi, perché con conti estremamente scassati come la Grecia, l'Irlanda, il Portogallo, a paesi più grandi che hanno certamente dei problemi ma non sono messi nelle stesse condizioni dei paesi periferici come la Spagna e l'Italia, si è creata un'implosione della domanda interna europea che ha avuto conseguenze enormi sugli scambi intracomunitari. Quindi il problema principale oggi è che l'Europa ha dosato male la ricetta per curare la crisi, facendo praticare anche a paesi come la Spagna e l'Italia una cura di tipo greco che assolutamente non ha senso, senza tenere conto tra l'altro proprio di questo totem del debito PIL, certo, che sta diventando fuorviante, in quanto l'Italia non ha una posizione finanziaria sull'estero così negativa come ce l'hanno i paesi periferici. La crisi anche recente di paesi come Cipro, ma anche altri di cui si pensa possa esserci una difficoltà imminente come la Slovacchia, rivela che il vero problema non è tanto il rapporto tra debito pubblico e PIL, quanto tra livello del debito pubblico e ricchezza finanziaria privata interna, senza la quale gli stessi sistemi bancari vanno in difficoltà e poi quindi si determina un'involuzione molto pericolosa per i sistemi economici. Ecco, in fondo l'Italia ha dei grandi asset, ha un grande patrimonio, una grande capacità anche patrimoniale, ha la possibilità di affrontare e superare questa crisi, però deve sciogliere un po' la camicia di forza di questo totem debito PIL, ma deve soprattutto ritrovare anche un'efficienza, soprattutto da parte dello Stato, della pubblica amministrazione, che per esempio dovrebbe pagare in tempo i propri debiti. Ma dobbiamo fermarci qui. Io ringrazio Marco Forti, Alberto Quadrio Curzio di essere stati con noi questa sera. Abbiamo parlato del loro libro Debito e Crescita, l'equazione della crisi, edito dal Mulino. Sono 272 pagine per 20 euro. Ringrazio anche Luca Cremonesi in redazione e Peter Bescapè in regia. Vi ricordo che questo programma, come le altre puntate di Economia in Pagina, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. grazie e buona serata.